Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempo di coronavirus. Parleremo da un lato dei dati diffusi oggi dall'INPS sulla cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga, ma anche le domande e i rifiuti sulla domanda dei 600 euro. Qui appunto non ci riferiamo ai prestiti bancari, ma al... iniziativa, la prima iniziativa sul Cura Italia di dare dei soldi direttamente in attesa che poi arrivi la seconda fase. Abbiamo visto tutti noi indicazione di un segno che dovrebbe essere leggermente più corposo, però l'INPS oggi ci permette di fare un bilancio delle domande accettate sui 600 euro, ma anche di come sta andando la cassa integrazione. Anticipo già che la cassa integrazione ordinaria, siccome viene anticipata dalle aziende, sta funzionando. Su quella in deroga, cioè quella che il governo ha approvato anche per chi avesse fino a un dipendente, c'è una lentezza maggiore, non si capisce se sia dovuta a un ritardo nella procedura da parte delle regioni o a che cosa. E di questo parleremo. Parleremo in apertura però di un tema che è assolutamente economico e riguarda diciamo, il tema fragilità economiche in cui sono precipitate alcuni italiani, ma altri che già vi erano. E mi riferisco a chi faceva già utilizzo dei vari centri Caritas piuttosto che di altre associazioni di volontariato, San Vincenzo, San Francesco. Insomma, il fatto che questi centri in molti casi siano stati chiusi, le mense chiaramente non sono state agibili. C'è un rapporto della Caritas sui bisogni dei territori, ma oggi ne parleremo con chi rappresenta la Croce Rossa Italiana, che da sola vuol dire 160.000 volontari in tutta Italia, perché la Croce Rossa Italiana, da quello che abbiamo capito, ma ne parleremo in diretta, sta spostando il suo intervento dalla parte, diciamo, più di carattere medico, sanitario, emergenziale, alla parte più di assistenza proprio dovuta a situazioni di indigenza e quindi di assistenza per situazioni di povertà o di neopovertà. Allora, di questo parleremo in apertura, poi i dati sulla cassa integrazione e sui 600 euro, infine un primo bilancio, dico primo perché è chiaramente del tutto prematuro, su come sta andando la riapertura. Perché lo dico? Perché noi abbiamo, da questa mattina stiamo raccontando nei nostri GR, per esempio la situazione dei trasporti locali a Milano, era una delle situazioni più critiche, ma insomma, da quello che vediamo tutto sommato la situazione sta tenendo, nel senso che non si sono registrate enormi criticità, anche perché molte, direi la stragrande maggioranza delle società dei servizi hanno mantenuto lo smart working, quindi non si è creato, penso a Roma e penso anche a Milano, laddove il trasporto locale viene utilizzato molto per andare al lavoro, avendo la stragrande maggioranza degli uffici ancora chiusi, non si è creato, diciamo, quell'effetto imbuto che molti temevano, visto che è il primo giorno della fase 2. Per quello che riguarda i mercati, invece, la fase 2 non c'è, nel senso che siamo ancora nella fase 1, meno 3,20% Milano, meno 4,20% Parigi, meno 3,30% Francoforte, Londra è quella migliore perché fa più 0,20%, il Dow Jones meno 0,80%, euro su dollaro 1,09. Faccio notare che tra i titoli Ferrari guadagna 1,70, Unipol 1,70, ma male tutti gli altri settori senza grandi distinzioni. CNH che sgnola meno 7,50, Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 6, Tenaris meno 5,60, Buzzi meno 5,40, Atlantia meno 5,20, Fiat meno 4,90, Eni meno 4,60 come Nexia, ST Microelectronics e Unicredit. il 4,30% il caro di Moncler, il 4% quello di Terna, Leonardo, di Terna e Leonardo, il 3,80% di Banca Mediolanum, il 3,70% lo perde Telecom Italia, nonché Ferragamo. Chiudo con chi perde più del 3%, Poste Italiane meno 3,40%, Fineco meno 3,30%, come Era ed Enel. UBI cede il 3% come Intesa San Paolo. Allora 349 come sempre 238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Qualcuno mi chiede dei motivi delle borse. Beh, insomma, ci sono intanto aprile, faccio notare che non è andato così male per le borse complessivamente, hanno fatto un più 5%, so che può sembrare strano ma è andata così. E dall'altro ci sono molte tensioni che stanno aumentando, come avrete letto, tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che anche per voce del ministro degli esteri Pompeo hanno detto, il segretario di Stato, hanno detto che insomma qualcosa non ha funzionato, l'ipotesi che continua a essere avanzata con forza è un errore nel laboratorio di Wuhan, dove comunque l'accusa di fondo resta di una scarsa trasparenza cinese nel comunicare da un lato che cosa è successo e dall'altro anche da quanto questa infezione circolasse. Adesso dalla Francia arriva una notizia che in Francia probabilmente hanno scoperto, facendo dei tamponi, hanno controllato i tamponi di soggetti che si erano ammalati di malattie polmonari a dicembre, che alcuni di questi sono stati trovati positivi al coronavirus, a dimostrazione che in Francia, come in altri paesi, da quanto capiamo, la circolazione è iniziata molto prima. Ora, a me non interessa lo scontro politico tra Stati Uniti e Cina in senso stretto, però è innegabile, e continuo a notare un silenzio in Italia abbastanza forte, è innegabile che quantomeno sul fronte trasparenza nella comunicazione la Cina non abbia fornito nessun chiarimento, nessun ulteriore elemento, per continua ad avere una posizione di pochissimi casi, pochissimi morti, e soprattutto non ha mai fatto autocritica sul modo in cui ha comunicato. Ricordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuava ancora a metà gennaio a dire che non vi erano elementi certi di una trasmissione del virus tra uomo e uomo, una cosa da chiedere le dimissioni intere in blocco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma faccio notare che non è arrivata nessuna proposta cinese o nessuna spiegazione maggiore cinese, solo una grande risposta o controffensiva mediatica in alcuni casi. Molto piccati, molto respingono ogni attacco, capito? Respingi gli attacchi, ma facci capire, dacci maggiori possibilità, permetti agli ispettori realmente indipendenti di andare a vedere e capire che cosa è successo, o spiegaci come mai le comunicazioni che sono arrivate da Pechino sono state così fallaci, alcuni dicono omertose, io dico insomma che ci va vicino, anche se non so come si dica omertà in cinese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, dicevo, di questo parleremo anche delle borse come sempre. Andiamo rapidamente con le notizie in breve. Nel parlare del dato economico e di come affronteremo anche le nuove stime diffuse oggi, per esempio penso al Centro Studi Confindustria, ma non solo, c'è anche l'Istat. Andiamo con le notizie in breve. Allora, chi va particolarmente male oggi in borsa sono le compagnie aeree Wall Street. Warren Buffett ha annunciato infatti di aver disinvestito nei 4 big dei ceni americani. Delta perde oltre l'11%, American Airlines anch'essa oltre l'11%, United Airlines 11%, Southwest più del 7%. Per quello che riguarda invece la Cina, faccio notare che oggi ha risposto, i media ufficiali cinesi definiscono pazze le tesi del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Benissimo. Può la Cina allora, invece che dirci che siamo pazzi, che è offensivo, aiutarci a capire che cosa è successo, che cosa hanno scoperto, da quanto circolava il virus, visto che sono stato il primo paese, confermano che la trasmissione è arrivata tra uomo e animale per via dei wet markets. Perché hanno riaperto i wet markets? Allora, se quella è la fonte di trasmissione, dai, non torna niente dalla comunicazione di Pechino. Allora, invece, veniamo al piano dell'europeo per il coronavirus, perché c'è un incontro importante. La maratona si chiama War Against Covid-19. Dobbiamo raggiungere, ha detto la Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, almeno 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi di dollari. La Germania ha stanziato 525 milioni di euro per questo War Against Coronavirus. Macron ha messo anche lui 500 milioni di euro, dall'Italia 140 milioni per vaccini e cure, e la Spagna 125 milioni anche in questo caso per la raccolta fondi. Veniamo alla situazione europea. Gli economisti vedono quest'anno un PIL dell'area euro crollare del 5,5% e un rimbalzo del più 4,3% nel 2021, più 1,7% nel 2022. Con un'inflazione che viene sostanzialmente gelata, quest'anno più 0,4%. Il commissario europeo Vestager ha detto attenzione, siccome abbiamo sbloccato gli aiuti di Stato, la Germania quello che fa è assolutamente giusto, ma non tutti hanno lo spazio di margine per i conti che aveva la Germania per mettere soldi nelle industrie, quindi bisogna anche aiutare chi non ha gli stessi margini della Germania. Per ora però siamo alle dichiarazioni. L'indice IFO tedesco sul clima di fiducia delle imprese tedesche nel settore auto è crollato, ha toccato il livello più basso dai tempi della riunificazione, e le aziende automobilistiche tedesche hanno chiesto anche alla Merkel incentivi. In Francia il premier Edouard Philippe ha aggiunto un aiuto di 200 euro per 800.000 giovani precari o bisognosi, e l'Unione Europea ha dato via libera a 7 miliardi di aiuto di Stato a Air France. Sappiamo che tutte le compagnie aeree europee hanno chiesto soldi, miliardi, sia Lufthansa 10 miliardi, Air France 7 miliardi e mezzo, e oggi il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli in audizione alla Camera ha detto ora l'intervento dello Stato dentro l'Italia è imprescindibile. Diciamo che noi ci eravamo mossi prima del virus, perché già avevamo fatto un prestito ponte da 600 milioni di euro, e quindi insomma. Però ho detto già senza battute che all'Italia in questo quadro quasi quasi ne esce bene, perché con le richieste degli altri non puoi certo parlare di un caso all'Italia in questo momento. E veniamo all'Italia. Lo spread è oggi leggermente salito, è a 240 punti. Però le stime che ha diffuso Confindustria, il centro studi, sono di un meno 8% nel secondo trimestre, e aggiungendo che il recupero non sarà veloce con la fine del lockdown. La produzione industriale di marzo e aprile è stata dimezzata, anche perché come sappiamo erano aperte metà, diciamo, delle imprese, e non tutte di queste e la maggior parte non erano industriali. E poi il ministro Patuanelli ha detto attenzione, in base ai dati che abbiamo ricevuto, la riduzione della produzione è di oltre il 50-55% ad aprile, il 30% in meno di marzo, perché a marzo il lockdown fu parziale, ricorderete che iniziò per tutto il paese l'11, Lombardia e Veneto il 7, e comunque ha detto non riusciremo mai a pareggiare il danno reale per l'anno in corso, nonostante tutte le risorse che possiamo destinare per la mancata produzione. E poi arriveremo ai dati sulla cassa integrazione, sono 8 milioni i beneficiari, di cui 5 milioni e 200 mila con l'anticipo da parte dell'azienda, stiamo parlando della cassa integrazione ordinaria, mentre quella in deroga è stata pagata solo a 57 mila lavoratori, dice l'INPS, la quale INPS aggiunge che ci sono 4 milioni e 700 mila domande per il bonus da 600 euro, 1 milione e 100 mila sono state respinte, 3 milioni e 700 mila accolte, respinte per vari motivi, o perché l'IBAN era errato 225 mila, o perché erano venivano già pagati il reddito di pensione o il reddito di cittadinanza per un cumulo, e altri avevano requisiti che non hanno superato i controlli. Hanno fatto bene a controllare, perché ricordo che i 600 euro vanno dati, andavano dati a chi aveva fino a 35.000 euro di reddito all'anno, o fino a 50.000 se tu avessi dimostrato un calo del 30% del fatturato nei primi mesi, in quei mesi. Mi sembra giusto, perché sappiamo che già in Italia l'evasione fiscale è alta, ed è sicuro che qualcuno di questi beneficiari non guadagnava, diciamo, 35.000 euro lordi l'anno, ma a maggior ragione è fatto bene a verificare anche sui requisiti. Sulla CIG in deroga, quella che vale, cassa integrazione in deroga, che vale fino a un dipendente, attenzione, perché qui non si capisce se il problema sia delle regioni, sono le regioni che devono inviare all'INPS. L'INPS dice: la Lombardia ha inviato appena 37 domande e 33 autorizzate. La Lombardia respinge questi dati, ne parleremo appunto tra circa 20 minuti. Voglio arrivare appunto alla fase 2 rapidamente per quello che riguarda, allora, la Confesercenti. Ci sono ancora 1 milione di imprese ancora ferme. La ripartenza ha coinvolto la parte manifatturiera, ma nel commercio, nel turismo, molti sono stati esclusi, a partire da 140.000 imprese del commercio ambulante, 120.000 negozi di moda e calzature, bloccati anche 30.000 tra parrucchieri, barbieri e estetisti. La spesa quest'anno diminuirà di 3.000 euro a famiglia, riportandoci ai livelli del 1999. Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi vedranno sfumare circa 25 miliardi di ricavi, e altri 13 miliardi saranno persi dal settore ricreazione e cultura, mentre la caduta per abbigliamento e calzature, ma anche per mobili e elettrodomestici, è di circa 11 miliardi. Ancora due notizie. La prima, o meglio una, è l'Istat, che ha fatto il raffronto tra il mese di marzo rispetto al mese di un anno fa. Allora, a livello nazionale c'è stata una crescita del 50% dei decessi, ma nello specifico il tasso di decessi è stato del più 568% a Bergamo. Segue Cremona, più 391% nei decessi, Lodi più 371, Brescia più 291, Piacenza più 264, Parma più 208%. Al contrario, le aree meno colpite, soprattutto il centro-sud, hanno visto decessi addirittura inferiori alla media nei 5 anni precedenti, del marzo dei 5 anni precedenti, meno 1,8% in generale. A Roma addirittura meno 9,4% i decessi. La grande maggioranza quindi si registra nelle aree appunto che abbiamo citato, ma con una differenza enorme che poi abbiamo visto anche nei numeri dei decessi per coronavirus. E in tutto questo, andando poi adesso alla fase 2, anche nella fase, diciamo, di non solo di ricostruzione ma di aiuto, vorrei parlare della denuncia della Caritas italiana, che è arrivata nel fine settimana, dove si registra da nord a sud del paese un incremento delle situazioni di povertà e di disagio economico. Questo è il dato che emerge dal 98% della Caritas, e da famiglie che sperimentano difficoltà materiali. Tra l'altro il numero dei nuovi poveri risulta più che raddoppiato rispetto alla situazione preemergenziale. I nuovi volti, diciamo così, incontrati dalla Caritas sono stati 38.500. Nuovi volti vuol dire persone che prima non si rivolgevano alla Caritas. E quindi c'è il tema, diciamo, di chi non riesce più ad andare in altre strutture perché sono chiuse le mense, sono chiuse le strutture, e c'è il tema di chi si rivolge per la prima volta alla Caritas, la quale continua. C'è stato un aumento delle domande di beni e servizi materiali, cibo e beni di prima necessità. Di tutto questo vorrei parlare con chi fin dalle prime ore di questa emergenza si è speso con oltre 160.000 volontari in Italia, e per capire se anche la Croce Rossa italiana sta modificando la tipologia del suo intervento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa Italiana, buonasera. Buonasera. Intanto grazie a nome, immagino, anche di tutti gli ascoltatori di Radio 24 per il lavoro che avete svolto in queste, e state svolgendo in questi mesi con 160.000 volontari in tutta Italia. Senta, Ronzi, anche voi state spostando la tipologia dell'intervento, anzi soprattutto voi, diciamo così, da un approccio emergenziale sanitario ha un approccio anche di assistenza e quindi di situazioni di criticità e di povertà o rischio povertà? Sì, assolutamente, mi sento di confermare quelli che sono i dati che ha appena letto per quanto riguarda anche le valutazioni dei colleghi della Caritas, ma anche Oxfam ha fatto insomma un'analisi sul fatto che tra il 6 e l'8% della popolazione mondiale andrà in condizioni di povertà, si aggiungerà a quelli che erano i cosiddetti ex poveri purtroppo. In questo senso anche noi come Croce Rossa siamo partiti da quella che era una risposta all'emergenza e quindi a quelle che erano le risposte emergenziali sanitarie, come probabilmente si è visto anche certo. nei mesi passati, ma oggi la vera emergenza è proprio quella della risposta alle persone che sono in condizioni di difficoltà. Noi siamo passati dall'assistere chi non poteva uscire a causa del virus perché magari era immunodepresso, quindi erano comunque già delle nuove vulnerabilità che si sono create per causa del Covid, a chi non aveva problemi di autosufficienza, nel senso che sarebbe autosufficiente per età, per condizioni di salute, ma che non è più autosufficiente perché comunque non ha più possibilità di reddito, quindi ha una condizione di non autosufficienza legata ovviamente a poter garantire i pasti, il mantenimento, per non parlare delle bollette, degli affitti, insomma di tutto quello che serve ad una famiglia normale per poter sopravvivere. Ecco, senta, quando siamo passati dal livello emergenza sanitaria, quindi al livello diciamo di assistenza vera e propria, che cosa vi viene richiesto? Poi invece vorrei capire come anche state dirottando le donazioni, perché voi avete raccolto per fortuna moltissimo nel mese di marzo, se non ricordo male, e anche aprile sì. come donazioni. Però sì, vorrei appunto, noi siamo passati dall'assistenza, stavamo garantendo l'assistenza ovviamente domiciliare, quindi della spesa a domicilio. Oggi invece siamo passati a portare, a comprare le cose per le persone, a fare delle raccolte di beni di prima necessità per le persone, perché le persone non hanno veramente neanche più i soldi per fare la spesa in alcune situazioni, specialmente pensiamo a quei lavoratori che erano dei lavoratori precari, saltuari, chiamiamoli in grigio, in nero, insomma tutte quelle condizioni che tra l'altro non riescono a godere di una serie di ammortizzatori. E nello specifico ci chiedono veramente anche l'acquisto dei beni di prima necessità. Noi siamo passati dalle raccolte alimentari che facevamo nei primi tempi oggi a fornire anche dei buoni spesa. Grazie alle donazioni, diceva prima, che abbiamo ricevuto, stiamo garantendo anche questo tipo di assistenza. Quindi non solo fare la spesa con le risorse che le famiglie avevano, ma offrire delle risorse. Abbiamo già assistito più di 15.000 famiglie, abbiamo investito già 2 milioni di euro in buoni spesa e, ahimè, contiamo di spendere ancora di più per riuscire ad arrivare in quelle parti della popolazione che non riescono comunque ad essere servite. Senta Ronzi, esiste una differenza, noi sappiamo che chiaramente vi era una differenza regionale nella distribuzione della povertà anche prima, vorrei capire questa si è acuita o paradossalmente il coronavirus ha fatto più da livella? Né una né l'altra si è differenziata perché ovviamente chi non aveva un reddito prima, se non godeva di altre misure, ovviamente ha delle nuove povertà, ma noi abbiamo trovato delle nuove povertà anche in quelle situazioni in cui invece in verità il tessuto economico era florido, però ovviamente nel mancare quei servizi, diciamo così, che creano gettito anche a quell'economia di base, i piccoli bar, i piccoli imprenditori che sono comunque in tante zone d'Italia, ovviamente hanno avuto un'improvvisa mancanza di entrate, quindi in questo anche nella nostra capacità di risposta sono cambiati molto gli schemi. Noi eravamo abituati a raccogliere alimenti, ad assistere famiglie in alcune zone, in alcuni quartieri, in alcuni punti specifici, chi più chi meno, in alcuni differenti punti dell'Italia. Oggi questa geografia è comunque cambiata. E quindi diciamo anche nelle regioni più ricche, penso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, voi avete avuto un incremento dei casi? Assolutamente, abbiamo avuto un incremento in tutte le regioni, anche in queste regioni, perché ovviamente nelle regioni che tra l'altro sono state di più colpite dal Covid, anche l'impatto su alcuni settori è stato maggiore. Veniamo alla raccolta, adesso non so se lei ci può dare il dato, però sappiamo che grazie anche alle imprese, ai privati, ai singoli, avete avuto una raccolta molto importante sia nel mese di marzo che nel mese di aprile, questo è molto positivo. Come state reindirizzando, diciamo così, la raccolta di fondi che vi vengono donati? Noi abbiamo fatto una prima raccolta che è stata totalmente destinata a sostenere il nostro territorio, l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, siamo riusciti a non lasciare nessun volontario dei nostri 160.000 operatori che operavano tutti i servizi senza le mascherine, senza le tute, quindi siamo riusciti grazie a questa raccolta immediata a garantire i dispositivi individuali. Abbiamo potenziato la rete dell'emergenza, quelle barelle in biocontenimento, quei mezzi in biocontenimento che avete visto al servizio del territorio, l'abbiamo messo al servizio delle ASL del territorio, dei servizi 118 in tutte le regioni. Oggi la raccolta che sta andando avanti, il sostegno di tante aziende, di tanti donatori, lo stiamo veicolando proprio per supportare oggi questi servizi di assistenza, ma prevediamo anche domani programmi che siano anche post emergenza, che vadano verso l'inclusione lavorativa, il sostegno alle famiglie, il sostegno a quegli studenti per esempio che avranno difficoltà, perché faccio una parentesi, anche questa nuova forma di studio, questa nuova forma di lavoro ha aumentato quella che era la percezione del digital divide, quindi stiamo veramente cercando di reindirizzare queste risorse anche a supporto di quelle famiglie che rischiano di trovarsi escluse anche per esempio dalla formazione. Sembra una banalità, ma non tutte le famiglie oggi hanno un PC a casa per poter far studiare i figli a distanza, quindi stiamo andando dall'acquisto dei beni per la necessità e buoni spesa, ma anche ad un sostegno reale alle famiglie per quello che è lo studio, che comunque è fondamentale. Allora, senta Ronzi, in quanto segretario generale della Croce Rossa Italiana, se lei volesse fare un appello in questo momento a futuri donatori o a chi ha intenzione comunque di continuare a donare alla Croce Rossa, visto che oggi ufficialmente siamo entrati nella fase 2, che appello farebbe a chi appunto ha intenzione di utilizzare la Croce Rossa come canale per far arrivare un aiuto? Di cosa c'è bisogno e quale dovrebbe essere l'atteggiamento? Oggi secondo me c'è bisogno di due grandi cose: intanto la possibilità delle aziende, quelle che ripartiranno bene, di favorire il reinserimento lavorativo di quelle persone che hanno perso il lavoro. Sembra un'ovvietà, però oggi è fondamentale cercare di ripristinare i posti di lavoro, perché questo modifica la forbice di quelli che saranno gli aiuti. Ma sicuramente per i donatori continuare a sostenerci, la possibilità dei donatori di sostenerci ci fa sì che potremmo traghettare, supportare le famiglie anche dopo questa emergenza. Questa emergenza purtroppo, noi lo sappiamo benissimo, non finirà con l'emergenza del virus, chiamiamola così, con l'emergenza sanitaria, ma avrà bisogno di grande spinta per far ripartire il paese. Questo significa non lasciare le persone da sole, non lasciare le famiglie da sole, non lasciare le persone che vivevano di pochi piccoli lavori senza un sostegno economico. Quindi chiediamo veramente il supporto dei donatori per aiutarci a raggiungere più persone possibile ed evitare di aumentare quel divario sociale che si rischia di trovare alla fine di questa emergenza. E allora, nel ringraziare il segretario generale della Croce Rossa Italiana, Flavio Ronzi, vorrei farvi ascoltare che cosa ha detto questa mattina il ministro, la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, ospite di 24 Mattina con Simone Spezia e Maria Latella, sul reddito di emergenza. Saranno misure a tempo, avranno durata di un paio di mesi. Ovviamente il reddito di emergenza viene da me, ma nel senso che io, come tutti gli altri che compongono il governo, abbiamo raccolto un grido di emergenza che ci hanno rivolto i sindaci e i comuni quando, se ricordate, è iniziata l'epidemia qualche settimana dopo. In quanto sono aumentate in modo consistente le famiglie in difficoltà e quindi che avevano proprio mancanza di beni di prima necessità, appunto quali cibo, insomma, che è importantissimo, no? Per la sopravvivenza. Questo grido di emergenza, questo grido d'allarme da parte dell'ANSI poi si è tradotto immediatamente, per fortuna, con un provvedimento del governo che ha erogato ai comuni una cifra delle risorse per poter gestire appunto l'emergenza, e così si è provveduto. Ovviamente per dare un sostegno a queste famiglie a breve termine, perché spero che insomma riusciamo nella, con la gestione della fase 2, la gestione di riapertura e tutte le precauzioni che stiamo adottando, a poter tornare in una situazione di normalità tra qualche mese, per un paio di mesi, quindi una misura assolutamente a tempo. Allora, adesso vedremo appunto dopo anche il meteo altri dettagli dei nuovi provvedimenti del governo. Le borse hanno chiuso, sì, sui livelli minimi, meno 3,70 Milano, meno 4,24 Parigi, meno 3,70 anche Francoforte, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Nuova in diretta con Sebastiano Barigioni. Qualcuno mi scrive sui 600 euro, guardate che avevano il limite che vi ho detto, 35.000 euro e fino di reddito fino a 50.000 nel caso di un calo del 30% nei primi mesi. Da quello che si è letto, il DL maggio, che doveva essere DL aprile, dovrebbe alzare questo livello, ma tenere dentro solo i 35.000 euro di dichiarazione dei redditi. Parliamo delle partite IVA dei lavoratori autonomi, ma restiamo sulle misure varate dal governo, perché al di là dei prestiti bancari, oggi non torno sul tema, lo faremo di nuovo lungo tutta la settimana, c'erano due principalmente le misure. Una riguarda appunto i 600 euro, bonus da 600 euro. Allora, l'INPS oggi ha comunicato di aver ricevuto 4.772.178 domande di indennità, 3 milioni dai lavoratori autonomi, chiaramente 3 milioni e 700 mila sono state accolte, mentre 1 milione e 100 mila, un po' di più, sono state non sono state accettate. Quindi in un rapporto di 3 accettate, un po' di più, e una invece respinta. Per quali motivi sono state rifiutate? 225.000 perché presentavano l'IBAN errato, 300.000 sono state respinte per cumulo con pensione o reddito di cittadinanza già in pagamento, e il grosso, 630.000, quindi la metà di tutte quelle rifiutate, avevano requisiti, non hanno superato i controlli nella verifica e correzione per o anche per la categoria sbagliata dall'utente. Comunque, alla data del 3 maggio sono stati pagati 3 milioni e 500 mila bonus da 600 euro. Ancora invece la cassa integrazione, da quello che capisco dall'INPS, ma adesso rivolgerò la domanda al collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti. Buonasera Giorgio. Buonasera a voi. Ecco, alziamo un attimo i livelli per favore di Pogliotti. Per quello che riguarda la cassa integrazione, quella ordinaria e l'assegno ordinario, insomma, sono arrivate 8 milioni e 92 mila, i beneficiari, scusatemi, sono 8 milioni e 92 mila. Di questi beneficiari, 5 milioni e 200 mila hanno avuto l'importo anticipato dall'azienda. Le aziende infatti anticipano la cassa integrazione e poi vanno a conguagliare con l'INPS, con quello che devono all'INPS, con i contributi. Invece 2 milioni e 830 mila avranno il pagamento diretto da parte dell'INPS. E quindi, ripeto, per la cassa integrazione ordinaria sono 5 milioni e 200 mila lavoratori e invece 2 milioni e 830 mila quelli direttamente pagati. Poi l'INPS dà anche i dati su quanti hanno già ricevuto, sono 3 milioni e 800 mila lavoratori quelli che l'hanno ottenuto dall'azienda e 1 milione e mezzo quelli che hanno avuto il pagamento diretto dall'INPS. E questo è un fronte. Poi invece, Giorgio, le domande di cassa integrazione in deroga, e cioè quella che è permessa anche a chi ha fino a un dipendente, sorprende il dato, perché sarebbero dunque le domande inviate all'INPS sono 173.000, di queste 85.000 già autorizzate e 29.000 pagate a una platea pari a 58.000 persone, perché le domande riguardano spesso più di un lavoratore. Però insomma, l'INPS dice: abbiamo pagato per ora a 58.000 lavoratori la cassa integrazione in deroga. La regione che è più indietro nell'invio delle domande è la Lombardia, con appena 37 domande decretate e 33 autorizzate dall'INPS. Ora, Giorgio, mi sembra che vi sia così una discrasia fortissima tra le domande fatte in quella ordinaria, che appunto le aziende possono in buona parte anticipare, e le domande arrivate su quella in deroga, che riguarda appunto anche l'artigiano, il piccolo commerciante, appunto parliamo spesso di bar, di ristoranti, di negozi, basta che tu abbia almeno un dipendente. Giorgio? Sì, il problema è diciamo che il decreto Cura Italia ha da un lato allargato enormemente la copertura degli ammortizzatori sociali, reintroducendo diciamo la cassa integrazione in deroga sul modello che fu utilizzato per la crisi del 2008, quindi estendendolo diciamo a tutto l'universo diciamo di microimprese che sono scoperte diciamo dagli ammortizzatori ordinari. Però il problema qual è? Che la cassa integrazione in deroga ha dei tempi e delle procedure molto più complesse diciamo degli ammortizzatori ordinari, della cassa integrazione ordinaria, e diciamo procedure appunto che in tempi diciamo passate i termini, tempi di normalità diciamo, si possono in qualche maniera supportare. In tempi di emergenza come gli attuali producono questo problema. Qual è? Perché? Perché la cassa integrazione in deroga chiede, prima deve esserci diciamo un esame, deve esserci un accordo con il sindacato, quindi l'azienda deve raggiungere un accordo col sindacato, se non c'è il sindacato quindi devono vedersi a livello territoriale eccetera, e poi l'accordo. Siamo in causa la regione, quindi ci sono tutte le procedure che poi anche variano a seconda diciamo, delle regioni, e poi solo in ultima istanza chiamo in causa l'INPS, che serve i decreti regionali. Ma le regioni che cosa devono fare? Cioè, io sono un negozio artigiano piuttosto, o un bar o un ristorante, e ho appunto 3, 4, 5 dipendenti, chiaramente in regola e assunti. Qual è il passaggio? Cioè, devono istruire le pratiche. Devono appunto arrivare a decretare, a fare il decreto e fare poi la domanda all'INPS, la quale diciamo, come istituto è un istituto poi che è il pagatore sostanzialmente, quindi bisogna accogliere. Qual è il problema? Che sono procedure che diciamo richiedono normalmente un paio di mesi. Allora è evidente che qui questo stiamo scontando il fatto che c'è un ritardo sicuramente da parte delle regioni. Scusa, ti faccio una domanda forse stupida, Giorgio, però non si poteva si può adottare il modello della cassa integrazione ordinaria? Cioè, immagino che anche l'artigiano, il commerciante, le categorie che citavo, debba dei contributi, deve versare i contributi all'INPS, ma non può intanto anticiparli e poi scontarli all'INPS e conguagliarli con l'INPS? Si è discusso molto, c'è chi ancora, per esempio Italia Viva proponeva dagli emendamenti al Cura Italia facciamo un ammortizzatore unico. Il problema è che sono regimi diversi e soprattutto qual era diciamo, il rilievo che era stato fatto? Che in emergenza creare una nuova, cioè o lo fai in tempi normali, dici basta, superiamo l'attuale sistema e andiamo verso un unico ammortizzatore, ma non lo puoi fare in corso d'opera, perché se tu lo fai in corso d'opera rallenti ulteriormente i tempi procedurali. Quindi sostanzialmente il governo si è trovato a gestire l'emergenza con strumenti vecchi che hanno tempi procedurali, lungaggini burocratiche, eccetera, vecchi, che sono incompatibili con questa emergenza. Quindi l'ultimo dato di oggi dell'INPS che ci dice 57.000 beneficiari della cassa integrazione in deroga che hanno avuto appunto la cassa, il trattamento riconosciuto, pagato, sono da calcolare su una platea che la relazione tecnica al decreto legge Cura Italia considerava potenzialmente di 2,6 milioni di lavoratori. Cioè, attento, perché sentiamo un po' male. Lei tu dici i 57 mila lavoratori che ad oggi hanno avuto l'autorizzata la cassa integrazione in deroga sono una goccia, visto che lo stesso ministero individuava in 2 milioni e mezzo la platea potenziale della cassa integrazione in deroga, cioè per quella di chi, ripeto, tipicamente il mondo del commercio, dell'artigianato, ha pochi dipendenti, 2, 3, 4, 5 dipendenti. Esattamente. Ora, non sappiamo quanti di questi effettivamente, perché bisognerebbe risalire a ogni regione, come dire, decreto per decreto, e capire effettivamente quanti l'hanno richiesto, eccetera. Però è evidente che, insomma, è talmente il delta, diciamo, tra le due cifre, è talmente ampio che, come dire, no? È lì che ci sono le maggiori sofferenze. Aggiungiamo a tutto poi che c'è un unico ente oramai, l'INPS, che si trova a gestire tutto. Tutto, sì. Cioè i 4 milioni di bonus per gli autonomi di cui parlavi prima, cioè è tutto quanto in mano allo stesso INPS, che come istituto adesso si trova a lavorare, ovviamente anche lì i lavoratori dell'INPS saranno tutti quanti smart working. Cioè, no, ma infatti io dicevo che bisogna anche aspettare un attimo, perché non era mai successo di chiedere all'INPS nell'arco di un tempo così breve 600 euro, non era mai successo che lo Stato ti mettesse 600 euro nel conto corrente. Vedo molte domande e molte critiche da chi dice io 600 euro non li ho ricevuti. Allora, io non ho detto che l'INPS abbia già risolto tutte le 3 milioni perché 700 mila domande accolte. A me risulta che molti li abbiano ricevuti i 600 euro, però può essere che qualcuno sia in ritardo. Attenzione, perché l'INPS oggi ha chiarito che su 4 milioni e 700 mila domande 1 milione e 100 mila non sono state accettate per i motivi che chiarivo. Sempre il ministro Catalfo questa mattina a Radio 24 con 24 Mattino ha detto: nel prossimo decreto le risorse per la cassa integrazione ci sono. Noi abbiamo avuto un confronto sul, come sapete, come tutti sanno, con il Ministero dell'Economia e della Finanza per andare a quantificare la spesa sulla cassa integrazione. In tutto ci saranno 16 miliardi che verranno appunto distribuiti a secondo del tipo di ammortizzatore sociale, e questo sarà per finanziare ulteriori 9 settimane di cui potranno appunto usufruire tutte le imprese italiane. Ovviamente il tiraggio sarà sicuramente inferiore rispetto a prima, in quanto adesso stiamo iniziando la fase 2, quindi a riaprire alcune attività in modo cadenzato, però si rinizia la riapertura, per cui ci sarà minore necessità di cassa. Quindi nel decreto in arrivo saranno, nel decreto aprile, che ormai è un decreto maggio, sarà coperta la cassa integrazione. Quei 7 miliardi non mancano, si conferma. Sì, sì. Okay. Allora, Giorgio Pogliotti, un'ultima domanda prima di lasciare la linea al traffico. Invece la bozza del DL che aprile, che adesso chiamiamolo maggio, sembra confermato un importo del bonus qui parlo delle partite IVA, quindi vicino agli 800 euro, ma solo per i 35.000 euro di reddito? Allora, guardate, la parte diciamo sui bonus autonomi ancora, anche stasera ci sarà ancora un vertice. Ancora diciamo sono temi su cui ancora stanno lavorando i tecnici, anche perché c'è un problema di tutta la partita degli autonomi di armonizzazione anche con le procedure annunciate, con i bonus annunciati dal ministro Patonelli per le imprese anche mono, diciamo, con un unico dipendente. Quindi c'è un problema di armonizzazione anche tra diversi strumenti. Quindi direi questa è un po' la parte un po', diciamo, che potrebbe subire qualche modifica. Certo è, la volontà è quella, diciamo, di confermarlo per aprile, maggio-giugno, come strumento, però insomma. Tu inviti la cautela. No, aspettiamo, figurati, con tutte le modifiche che abbiamo visto, aspettiamo il Consiglio dei Ministri. Grazie intanto a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Adesso lancerò il traffico assieme a questo punto. Dai, lanciamo il traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Dunque, dicevo del fronte invece non domande ma imprese, cioè, scusate, non domande di soldi, dei 600 euro di cassa integrazione, ma il fronte di liquidità alle imprese. Allora, sempre il ministro Catalfo, questa mattina ospite del 24 Mattino, ha anticipato che si sta prevedendo un intervento a fondo perduto, che vuol dire che non devi ridare i soldi. Quindi, al di là dei prestiti fino a 25.000 euro, 100%, fino a 800.000 euro col 10% di garanzia dei confidi, poi fino a 5 milioni, però si sta prevedendo un intervento a fondo perduto per le imprese. Noi stiamo anche prevedendo un finanziamento dello Stato, quindi un fondo perduto per le imprese, quindi per aiutarle e sostenerle nella fase di ripresa delle attività. Quindi non c'è un solo intervento, ma deve essere un mix di interventi, quindi un ventaglio di interventi che sostengano da una parte le famiglie e i lavoratori italiani, perché ovviamente tutto si basa, la nostra economia si basa appunto anche sui consumi, e quindi sostenere il reddito è importante anche per questo, e dall'altra sostenere la liquidità delle imprese e ovviamente anche gli investimenti, in modo tale che si garantisca la ripresa. E poi le proposte avanzate dal presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, ha detto dobbiamo avere una doppia azione, ha detto il ministro Catalfo: sostenere le imprese e le famiglie, dall'altra sbloccare gli investimenti e accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Ovviamente in questo momento noi dobbiamo avere una doppia azione, cioè da una parte aiutare e sostenere, come abbiamo fatto nel nostro decreto precedente, e aiutare e sostenere, e anche nel prossimo, aiutare e sostenere le imprese e le famiglie italiane anche con strumenti di sostegno quali cassa integrazione o altri che... Sì. E dall'altra parte ovviamente sbloccare gli investimenti e accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, quindi sicuramente sono delle proposte che insomma hanno il loro valore. Il ministro Patuanelli invece in audizione alla Camera sul disegno di legge liquidità, quello che permette i prestiti a 6 anni alle imprese, ha detto le richieste di accesso al Fondo Centrale di Garanzia sono 70.000, di queste la maggior parte destinate alla misura dei 25.000 euro, e per un totale di 72.660 finanziamenti richiesti per un importo complessivo di 4 miliardi e 900 milioni. La maggior parte, dicevo, sono i 25.000 euro, cioè su 72.000 domande 50.000 riguardavano i 25.000 euro, per un totale di 1 miliardo e 100 milioni. Il fondo di garanzia sulla copertura per la garanzia SACE per le imprese più grandi sarà aumentato. Il dato è identico, appunto, è quello dell'ABI: 72.000 domande al fondo di garanzia da questo punto di vista. Allora, adesso andiamo sul GR24 e poi commentiamo i dati. Dovrebbe arrivare il comunicato della Protezione Civile, sapete che non c'è più la conferenza stampa. Andamento di borsa e soprattutto come si sta muovendo la parte economica del paese in questa fase 2, il primo giorno di sperimentazione della fase 2. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Burro Superiore Fratelli Brazzale, dalla filiera ecosostenibile, il sapore della felicità. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TVSAT. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso i dati, il comunicato diffuso dalla Protezione Civile, come sempre a quest'ora. Allora, per quello che riguarda i positivi sono meno 199, i guariti più, quindi meno 0,1%, i guariti sono più 1225, più 1,5%, che è un dato un po' più basso rispetto a ieri e l'altro ieri e i giorni scorsi. E per quello che riguarda invece i decessi sono 195, è un più 0,6%, è in linea con quello di ieri, più basso di tutta la settimana scorsa. Ricordate che la settimana scorsa purtroppo i decessi sono stati sempre superiori ai 200, tra i 260 e i 400, quindi il dato visto così segnala, conferma quello che stiamo raccontando. Il totale dei contagi è 1221 in più e quindi mettendo il dato complessivo dei contagi è più 1221 e quindi più 0,6%, terapia intensiva meno 22, meno 1,4%, i ricoverati meno 441, meno 2,3%, e invece è molto buono il dato sui ricoveri, mi sembra, perché è più alto di ieri e dell'altro ieri, il calo dei ricoverati. A una prima vista, dati che confermano l'andamento anche della settimana scorsa, quindi un continuo calo dei ricoverati, un calo della terapia intensiva, i contagi che crescono di 1221, però sappiamo che poi sul tema dei contagi entra tutta la polemica sui tamponi, quindi noi guardiamo ricoverati, terapie intensive e decessi. I decessi sono un po' più alti di ieri, che erano stati 174, sabato il dato invece era di 190, ma si erano aggiunte le comunicazioni da parte dei comuni lombardi a fine mese, quindi era sfalsato. Comunque il dato è, anche sui decessi, pur essendo sempre 195 persone, ci mancherebbe, è sicuramente migliore di tutti i dati della settimana scorsa e delle settimane precedenti. Adesso cerco di darvi anche un raffronto, diciamo, temporale su questo. Ecco, i malati a questo punto sono 100.000, per la prima volta sotto quota 100.000, cioè chi sono 199.000, quindi al netto dei guariti e dei decessi. I contagiati totali sono 211.938, più 1.221 in 24 ore, e appunto però per la prima volta si va sotto i 100.000 nel dunque, ecco, scende sotto 400.000 il numero di malati per coronavirus ancora attualmente malati, e guariti 1.225 più di ieri. Andiamo alle borse rapidamente, perché invece le borse non si sono stabilizzate, anzi oggi hanno conosciuto un calo tutte. Devo leggere però assieme a voi una dichiarazione, un attimo, perché c'erano i dati per quello che riguarda il gruppo invece Fiat Chrysler, dove, eccola qua, a maggio meno 97,5% le auto vendute in Italia nel mese di aprile, scusatemi, rispetto allo stesso mese del 2019 siamo appunto a 97,5 meno 4.270 le auto vendute, e per quello che riguarda il gruppo Chrysler appunto il calo del 93,6%, la quota sale al 37,9%. Sale molto ma con numeri bassissimi, sale del 12% la quota Fiat ma con numeri appunto di un crollo pressoché totale, appunto il 27,5% di auto in meno vendute rispetto a un anno prima. La borsa, Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, le borse oggi non se la sono passata bene, tranne diciamo Londra, meno 0,16, Francoforte ha fatto meno 3,70, Parigi meno 4,20, Milano meno 3,70%, Dow Jones meno 0,80%. È vero che una cosa che può sembrare strana, che può essere sfuggita, che nel mese di aprile le borse europee avevano fatto complessivamente in media un più 5%, ma i motivi di questo calo, che oggi colpisce tutti i settori produttivi, CNH meno 7,5%, Exor, la controllante, meno 6,5%, Atlantia meno 6,5%, Eni meno 5,80%, Fiat Chrysler meno 5,60%, come Unicredit e Tenaris, il 5,5% per Destia Microelectronics e Buzzi Unicem, il 4,80% è il calo di Terna e di Nexi, il 4,5% è il calo di Leonardo, Telecom Italia, Banca Mediolanum, il 4% perdono Moncler, Fineco, Era, Ubibanca e Ferragamo. Andrea. Sì, è stata una seduta strana, soprattutto perché è stata una seduta a effetto ritardato, diciamo, per quanto riguarda le borse europee. Tu citavi Londra, che è stata l'unica a chiudere in positivo. Per quale motivo? Perché Wall Street e Londra sono state aperte nel primo maggio, entrambi avevano accusato una perdita significativa a Wall Street intorno al 2,5%, e la stessa cosa a Londra. Le borse europee, non le altre borse europee dell'Eurozona in particolare, non erano state aperte, quindi hanno assorbito l'effetto negativo che era dovuto sia alle accuse di Trump e Mike Pompeo nei confronti della Cina sull'origine del virus, del coronavirus, sia anche l'effetto di alcune trimestrali americane, a cominciare da quella di Amazon, che non a caso aveva perso a Wall Street il 7%, prevedendo un impatto coronavirus sul secondo trimestre di 4 miliardi di dollari. Quindi questo fattore è stato alla base del calo delle borse, si è avuto riflessi soprattutto sulle vendite del settore energia, nonostante il petrolio nel pomeriggio abbia poi sostanzialmente recuperato quota $20 a barile, 26 per quanto riguarda il Brent, con vendite anche sul settore auto sui tecnologici e sul settore viaggi. Settore viaggi che è stato un po' nell'occhio del ciclone, soprattutto lo è ancora a Wall Street, perché nel weekend sono arrivati le indicazioni della società finanziaria di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, che ha annunciato di aver chiuso tutte le posizioni sulle compagnie aeree. Berkshire ha accusato 50 miliardi di perdite nel primo trimestre, ma questo ha portato a forti vendite, sta portando a forti vendite sul settore aereo, non solo americano ma anche europeo. E poi un po' di trimestrali, anche se poi oggi quella più in vista, Ferrari, ha iniziato con meno 6% come reazione ai conti e poi piano piano ha progressivamente recuperato, finendo per salire di oltre 1% in chiusura. Sì, tu giustamente hai fatto notare che c'è stato anche un ritardo nell'acquisire, diciamo, quello che era stato il calo di Londra e di Wall Street il primo di maggio. Grazie anche ad Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Veniamo al primo giorno della fase 1. Da tutte le agenzie che abbiamo letto e stiamo leggendo si segnala tutto sommato una situazione sotto controllo per vari aspetti. In primis il fatto che molte aziende o meglio molte società, soprattutto nei servizi o nella parte amministrativa, hanno mantenuto lo smart working, quindi mantenuto i loro dipendenti in buona parte a casa, lavorando da casa. E chiaramente questo su città come Roma e Milano, ma anche Torino, rappresenta una grossa fetta di chi invece ogni giorno si reca al lavoro e svolge però compiti di carattere, diciamo, amministrativo, voglio dirlo, che lavora in ufficio e in questo momento stava lavorando o ha preso a lavorare in smart working. Il tessuto di piccole imprese che diciamo, caratterizza il nostro panorama è un tessuto fatto anche di tantissimi distretti o zone industriali dove, molti, come molti di voi sanno, in realtà lo spostamento avviene anche perché delle volte sono non vicinissime ai centri urbani, avviene anche con mezzi propri, quindi non si segnalano in questo momento grossissime tensioni, parlo soprattutto del trasporto locale che era la cosa che più preoccupava, per 4.200.000 persone che sono tornate al lavoro, sono i due terzi dei lavoratori interessati alla sospensione, perché mancano ancora, come ricordava oggi la Confesercenti, tutti i settori, principalmente il mondo del commercio, che apriranno alcuni il 18 e altri il primo di giugno, anche se da questo punto di vista dovrebbe esserci c'è l'ipotesi di anticipare per alcune regioni, per le regioni più virtuose come numero di casi, andamento delle R con zero del contagio, anticiparle magari al 18 di maggio, anche parrucchieri e centri estetici. È chiaro che sono rimasti tagliati fuori tutti, appunto, il mondo del commercio in questo momento, però i lavoratori tornati al lavoro oggi rappresentano i due terzi di quelli che erano bloccati dalla quarantena. Rimangono a casa ancora più di metà delle donne, degli autonomi, degli under 30, 2.700.000 i lavoratori che ancora non possono rientrare. Il centro di ricerca Open Evidence ha condotto in Italia, in Spagna e in Gran Bretagna un'indagine con migliaia di casi per 3 settimane consecutive, cercando di capire come mutasse la sensazione nei confronti di questa pandemia e di questa epidemia. Giudizio sul futuro, quale la variabile più importante, se la variabile della salute o quella dell'economia, giudizio anche sul piano dei vari governi delle misure restrittive. Mi interessa molto perché appunto ha messo a confronto Spagna, Italia e Regno Unito, quindi 3 casi molto molto simili, ahimè, nel numero di contagi e nei decessi, diversi invece come approccio. Cristiano Codagnone, che insegna all'Università della Catalogna, nonché da questo punto di vista è anche ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa è emerso da questa ricerca? Allora, i risultati fondamentali della prima ondata, perché noi ne stiamo facendo 3 e seguiremo, monitoreremo gli stessi 1.000 persone in 3 paesi per 3 settimane, la prima l'abbiamo completata il 1 maggio, stiamo analizzando i risultati. I risultati preliminari sono questi: noi abbiamo sottoposto attraverso una tecnica sperimentale che recupera le preferenze reali delle persone 2 frasi contestate, che sintetizziamo così: occupatevi anche dell'economia, ma basta misure restrittive senza piano d'uscita. Ecco, in Italia il 67,4% ritiene che il governo dovrebbe occuparsi non solo di contenere il contagio, ma anche di evitare una crisi economica, e questa percentuale in Italia è marcatamente più alta che in Spagna, nel Regno Unito, dove comunque supera il 60%. Inoltre, cioè, le persone che dicono che la salute non è necessariamente più importante dell'economia. Esatto, dicono in questo momento il governo non dovrebbe occuparsi, la frase che abbiamo sottoposto, il governo non dovrebbe concentrarsi solo su come contenere il contagio, ma anche come evitare una crisi economica. Ora si ottiene un quadro per il quale in Italia questa cosa è più sostenuta che negli altri 2 paesi. D'altra parte abbiamo sottoposto questa affermazione: il governo non dovrebbe solo imporre misure restrittive, ma dovrebbe dare un chiaro piano e trasparente per il ritorno alla normalità. Allora, in Italia questa affermazione è sostenuta dal 65%, in Spagna dal 71% e nel Regno Unito dal 72%. Quindi, pur con percentuali abbastanza simili, sono più gli spagnoli e i britannici che ritengono che il governo, oltre a imporre misure restrittive, deve dare un piano chiaro. Ma comunque 65% anche in Italia. È in Italia, quindi sì, diciamo che a mio avviso sono abbastanza simili tutte le percentuali, sì. Quindi molto forte la quota di chi chiede, non solo dice attenzione alla salute non è più importante dell'economia, ma chiede anche un... oltre a misure restrittive, un piano chiaro per il ritorno alla normalità. Sì. L'ho interrotto. Scusi, niente. L'altro risultato molto significativo, nel senso che noi, cioè, in questo momento le ricerche internazionali si sono focalizzate però poco sul tema della salute mentale, noi abbiamo utilizzato una scala consolidata in letteratura e abbiamo utilizzato poi tecniche di intelligenza artificiale e riusciamo a fare una predizione secondo la quale in Italia e in Spagna il 39% della popolazione è a rischio di salute mentale, ovvero una combinazione di depressione, ansietà e stress, e nel Regno Unito solo di poco inferiore, del 35%. Quindi noi avevamo selezionato questi tre paesi perché il contagio era esploso in tempi diversi, le politiche erano state diverse, ma... abbiamo conforto dalla nostra ipotesi che, come dicono anche molti epidemiologi di fama mondiale, i danni collaterali sullo stato psicologico delle persone devono essere considerati e bisogna cominciare a occuparsene, no? Cioè, Draghi aveva detto da subito cominciamo a pensare al dopo. Il dopo riguarda anche appunto occuparsi di delle condizioni di disagio psicologico molto marcate. Ecco, per quello che riguarda adesso un diciamo anche le altre domande che avete posto, l'ottimismo, pessimismo verso il futuro e i comportamenti di lungo periodo, che cosa è emerso? Questo purtroppo mi dispiace, dottore, ma queste domande le faremo nella prossima survey, ok. Sì, e poi nella terza, sulla base di quelle domande, siccome siamo un gruppo di psicologi, economisti e sociologi, sulla base di quelle ultime domande faremo una costruzione bottom-up della stima dell'impatto economico di questa crisi, ovvero dalle intenzioni future di risparmio, investimento, attività economica, ricerca di lavoro, costruiremo una stima alternativa a quelle che circolano su quello che sarà la dimensione della recessione. Però purtroppo questi dati non ce li ho ancora perché no, chiaro. Ancora raccolto. Però interessante per concludere con Agnone che proprio le ricerche che avete effettuato per 3 settimane ogni giorno mostri una pressione molto forte. Uno mi può dire ma non si vive una ricerca, ho capito che uno ci poteva arrivare anche in maniera intuitiva, poi la ricerca però te lo certifica, c'è una pressione molto molto forte per la variabile economica, tant'è che adesso non solo l'Italia oggi o la Francia l'11 ma altri paesi hanno già riaperto un insieme di attività produttive da questo punto di vista e adesso manca per quello che riguarda l'Italia la parte del commercio. Grazie allora anche, aspettiamo la fase terza e conclusiva di questa ricerca. Grazie anche a Cristiano Codagnone, professore appunto all'Università della Catalogna e ricercatore all'Università degli Studi di Milano. Vi devo leggere una notizia in un'ultima ora perché dopo aver parlato dell'INPS, le domande di cassa integrazione in deroga che devono passare dalla regione e dei dati bassi diffusi dall'INPS sulle richieste bassissime dalla Lombardia, allora c'è una nota adesso della regione Lombardia, dunque... Se l'INPS continuerà a diffondere notizie infondate e faziose, la Lombardia si difenderà nelle sedi opportune per quello che riguarda la gestione delle domande di cassa integrazione in deroga. Allora spero che si chiariscano sia a Lombardia che l'INPS, cioè che continua, la regione Lombardia continua da settimane assistiamo a un quotidiano scaricabarile da parte dell'INPS sulle regioni per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione che il governo aveva assicurato sarebbero avvenuti entro fine aprile. Allora, vedremo se domani saremo in grado di darvi qualche aggiornamento in più su questo. Intanto l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.